La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16, 6 primi 54 secondi in questa ultima versione di Oscar prima del fine del 2017. Non è che poi non c'è, cioè, naturalmente ci sentiamo il 2, sia la mattina con Luca Telese che torna a 24 mattina, sia il pomeriggio la versione di Oscar. Però questa è l'ultima, ma domani dalle 10, mi raccomando, i Conti della Belva ci sono anche domani, quindi domani puntatone dei Conti della Belva con tutti e quattro i compari sul 2017 che ci lascia sia nella finanza pubblica che nelle banche italiane che in quello che è successo sui mercati internazionali. Di cosa parliamo oggi? Vi dirò. Questa puntata nasce da una lettera che mi ha molto colpito, che ho ricevuto due giorni fa da una persona che è un osservatore autorevole, è stato anche in gioventù un parlamentare italiano, molto appassionato alle cose pubbliche, poi è tornato a fare il suo mestiere, che mi ha detto: guarda, caro Giannino, io pur pensandolo come te su molte cose, non sono per niente convinto che quello che sta avvenendo in Gran Bretagna sulla Brexit nei confronti dell'Europa e neanche quello che sta avvenendo in Catalogna, vicenda diversa, secessione, ma anche lì, lo sapete, a travolgere tutto è stata la scoperta che non avendo un piano preciso significava... prendendo per buono il risultato del referendum, significava uscire dall'Unione Europea, per come funziona oggi l'Unione Europea, e dall'euro, e quindi disastro. Allora, però la lettera che ho ricevuto continua dicendo: non sono per niente convinto di questa opinione che gira per mezzi di informazione autorevoli, giornali, televisione, radio, per la quale agli italiani che hanno forte contrarietà nei confronti dell'Europa e dell'euro, perché sono in maggioranza questi italiani, lo dobbiamo riconoscere nei sondaggi Eurostat, si capisce chiaramente che siamo diventati il paese più anti-europeo e anti-eurista del gruppo dell'euroarea dell'Unione Europea. Dice il mio amico: non sono per niente convinto che la vicenda britannica e catalana dimostri a la maggioranza degli italiani che non ne possono più dell'euro e dell'Europa, per una ragione o per l'altra, senza entrare nel merito se abbiano ragione o torto, gli dimostri però che se davvero l'Italia si decidesse a con un governo formato dopo le prossime elezioni a dire o si cambiano integralmente le regole europee oppure ce ne andiamo, arrivi come un messaggio di improponibilità di questa scelta, come se ci si esponesse a grandi rischi. Perché, continuava il mio vecchio amico, guarda che la Brexit, se uno non bada alla confusione britannica di un anno e mezzo a questa parte, ma va alla sostanza della cosa, quello che può arrivare alla gente in Italia è invece che pur nella confusione dell'impostazione britannica, intanto l'Europa è inchiodata al tavolo per l'importanza che ha il Regno Unito, e nel frattempo grandi segni di crollo dell'economia britannica, sì rallentamenti, sì, però grandi segni di crollo non ci sono. Ma quello che conta è che la gente può arrivare al messaggio, e forse arriva proprio questo messaggio, dice il mio amico, che pur in presenza di una decisione annunciata durissima, intanto la cosa che si ottiene è che se sei importante l'Unione Europea non ti può mandare a quel paese perché c'ha interessi troppo forti, per cui deve per forza restare inchiodata al tavolo con te. Dice: e quanto alla Catalogna? Certo, la situazione è diversa, stiamo parlando di secessione, di indipendentismo, ma anche in quel caso, come si vede, la Spagna non può far finta di niente e non può semplicemente credere di aver chiuso la partita con gli arresti e manganellando, perché si scopre che se l'opinione pubblica ribadisce nei seggi, come ha fatto alle elezioni appena tenute, imposte dall'articolo 155 della Costituzione spagnola, però ecco, in presenza di una volontà raffermata, pure la Spagna si dovrà rimanere inchiodata a quel tavolo e non può far finta di niente. Dice quindi: stai attento, Giannino, perché quelli come te che credono che agli italiani stia arrivando un messaggio diverso, forse si sbagliano, e forse all'indomani della conta dei voti, poi se nascesse un governo figlio di una scelta degli italiani, delle diverse forze politiche che oramai sono intransigentemente anti-Europa e anti-euro, beh, a quel punto significherebbe che ho ragione io e non che ha ragione chi pensa invece che dalla vicenda britannica e quella catalana arrivino forti disincentivi. Allora, questa lettera, devo dirvi la verità, mi ha fatto pensare a lungo. E io non modifico il fatto che secondo me l'Italia deve, a mia opinione, c'è da guadagnare e non da perdere sia dall'euro che dall'Europa, e su questo non seguirò mai i guru che raccontano storie diverse perché fanno parte di un grande complotto autoassolutorio delle responsabilità italiane per i guai nostri sulla produttività, l'andamento dell'economia, il debito pubblico e il deficit. Sognano loro di diventare i grandi ministri dell'economia che tornano a stampare moneta, vogliono abolire anche il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Questo hanno in mente. Carriere personali, grandi poteri personali, come quando facevano i superministri dell'economia e decidevano quali settori di beni che importavano e esportavano erano soggetti ai depositi infruttiferi, perché funzionava così l'italietta della lira, forse non ve lo dicono, ma è questo quello che loro vogliono fare, una sfrenata ambizione di potere, diventano i grandi ministri, quelli di cui parlavano Francesco Barone in un indimenticato articolo all'inizio del Novecento, no? Dove c'era il grande ministro della produzione italiana che decideva tutto lui, e vabbè, vedremo, se voi ci credete, votate per loro. Ma detto questo, io non cambio idea su questo, però forse il mio amico tutti i torti non ce l'ha. E allora ho deciso, facciamo una trasmissione chiamando due giornalisti che seguono queste vicende con grande attenzione per porgli proprio questa domanda. Non è che a furia di ridere i britannici per le difficoltà della May e di aver considerato chiusa la vicenda catalana perché se ne erano andate le imprese e le banche, che poi se ne erano andate, avevano annunciato che trasferivano la sede, mica hanno chiuso in Catalogna, noi stiamo commettendo un errore di visuale clamoroso? Allora iniziamo con il primo di questi due amici, dopo la prima pausa ci raggiunge anche la seconda. Il primo è Mario Secchi, giornalista, fondatore di List. List è una delle più belle sorprese, lo dico dal punto di vista giornalistico, di questo 2017 che va a chiudere, che va a chiudersi. Abbonatevi e sostenetelo. Questo è il mio grazie personale e il mio ringraziamento, auguro di buon anno a Mario Secchi. Grazie di essere con noi, Mario. Ciao Oscar, buon anno a tutti, è un piacere essere con voi. Ma diciamo allora la verità, questo mio amico prende lucciole per lanterne o siamo noi che sbagliamo? Allora, no, questo tuo amico non prende lucciole per lanterne, parli con uno in questo momento che pensava che la Brexit, insomma, avesse un sacco di problemi e che avrebbe condotto gli inglesi a una crisi, perché questo dicevano tutte le stime economiche, no, io insomma, adesso non sto a citarle, ma parecchie, autorevoli e così via, dicevano questo. Dopodiché, come sempre, bisogna guardare i fatti. E io ho cominciato a guardare attentamente, ormai perdo più tempo ad osservare che cosa succede sui dati economici della Brexit che a guardare l'Italia, ti dico la verità, perché è un caso molto interessante. E alla fine il sistema inglese, come dici tu, regge. La cosa interessantissima, la cosa che mi ha fatto scattare poi a un certo punto la curiosità per seguire attentamente tutto questo sono state alcune dichiarazioni di Mervyn King. Sì. Mervyn King è l'ex governatore della Bank of England, è uno delle personalità più rispettate nel mondo delle banche centrali. E devo dire la verità, aggiungo, l'anno uscito all'inizio del 2016, tra tutti i banchieri delle banche centrali in carica nella grande crisi, quello che ha scritto il libro più, tra virgolette, a mio personalissimo giudizio, onesto, sì, nell'ammissione di errori, cose eccetera eccetera rispetto a Greenspan e così via, sì, assolutamente migliore da questo punto di vista, visto che i banchieri centrali che dicano ho sbagliato è raro, invece leggete quel libro, se ne vale la pena. Fantastico, il libro è pubblicato di Endo Velkemi, no? la fine dell'alchimia è bellissimo. Allora a un certo punto cosa dice? Dice, ma voi non avete capito niente. Dice, l'impatto della Brexit nel lungo periodo sarà limitato. La Gran Bretagna ha il diritto di governarsi da sé. Chi ha votato per la Brexit non è né razzista né xenofobo, non è uno stupido. Le élite hanno perso il contatto con i bisogni della gente. È la UE ad avere lasciato noi. La sterlina debole è benvenuta. Draghi è in una posizione impossibile con la Germania. Poi diceva l'Eurozona, dice, precipiterà di nuovo nella crisi senza un dibattito genuino e un reale cambiamento. Dice una cosa su cui conveniamo tutti, mi pare, cioè che l'unione monetaria è stata prematura senza l'unione fiscale, un errore. Dice c'è bisogno di un'unione fiscale e la Germania deve assumersi le sue responsabilità. E poi diceva vengono liquidati, e continua a sostenere, vengono liquidati come populisti tutti i partiti euroscettici, ma le loro critiche poggiano in molti casi su dati reali che le élite non capiscono. Ora, sai, non è Salvini, non è Farage, non è un politico che ha un interesse elettorale, legittimo, sia chiaro. Sì, certo. È un banchiere centrale stimatissimo, è una persona equilibrata. Da lì abbiamo cominciato a guardare tutti meglio i dati economici e non solo, perché poi non è una questione, tu lo sai meglio di me, Oscar, questa non è una questione solo economica, anzi, l'economia è un pezzo, neppure il più importante, almeno della storia della Brexit e così pure della Catalogna. Anche perché se fossero state premesse economiche, allora tutto non torna, perché la crescita del Regno Unito durante David Cameron è stata eccezionale. La gestione di Cameron è stata ottima sotto tutti i punti di vista, però è arrivata la Brexit. La Catalogna, visto che c'è questo, facciamo questo parallelismo, la Catalogna è la regione più ricca della Spagna, ha un reddito pro capite molto più elevato, ha tutte le principali imprese là, eppure è scoppiato il separatismo in una maniera traumatica, come abbiamo visto, era sempre sotto traccia da anni. Io con Cossiga parlavo sempre di queste cose, perché sai, i catalani sono anche Sardegna, lui è amico di Pujol, quindi è una storia che conosco abbastanza bene. E per quanto riguarda la Brexit, il dato economico non poteva tornare, perché l'Inghilterra viveva un momento, ha vissuto e vive ancora un momento di crescita. Ora, guardati il dato sul lavoro, l'occupazione, è il minimo storico e continua ad essere, la disoccupazione continua ad essere al minimo storico. Guardati la resilienza fortissima comunque del sistema economico, che è certamente stato sottoposto a degli stress, e continua ad essere forte. E soprattutto guardiamo la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che l'Unione Europea, legge alla voce Berlino, ha un bisogno disperato del Regno Unito. Certo, anche il Regno Unito ha bisogno dell'accesso al mercato unico, ma tra i due, se dovessi andare oggi a fare i conti, tra i due in realtà la spada non ce l'ha la UE e non ce l'ha Berlino. C'è stata qualche settimana fa un'intervista molto interessante di Clemens Fuest, che è il capo economista dell'IFO, il più importante think tank pensatoio economico tedesco, che diceva: noi dobbiamo fare con assoluta urgenza l'accordo con gli inglesi, perché per l'economia e per le imprese del sistema tedesco non farlo sarebbe uno shock insopportabile. A quel punto io ho letto quello, ho detto: scusa, fammi vedere un attimo il surplus, la bilancia commerciale tra Germania e Regno Unito. Bene, la bilancia commerciale tra Germania e Regno Unito dice la seguente cosa: che i tedeschi realizzano 50 miliardi di euro di surplus con il Regno Unito ed è il paese in testa a questa classifica, viene prima degli Stati Uniti. Per cui ci possiamo immaginare noi che di fronte a questi numeri, che però hanno un sottotesto che viene prima, secondo me, culturale, si possa lasciare così il Regno Unito in balia di che cosa? Delle onde della storia? È impossibile. Secondo aspetto, il poeta Novalis, e qui veniamo al dato culturale, il poeta Novalis diceva: ogni inglese è un'isola. E guarda, Oscar, io non trovo definizione migliore per l'inglese, è proprio questa. E che ci fosse la Brexit all'orizzonte si capiva benissimo girando per Londra, andando sui taxi, ascoltando la gente al pub. Cioè, non era un problema dei Tories o dei laburisti, e la maggior parte di tutti questi era per la Brexit, per una questione legata alla legislazione, e questo è il diritto, è una cosa profonda che sta nell'anima della gente, e tutti dicevano: no, ma noi siamo inglesi, rivogliamo il controllo del nostro futuro, eccetera. Benissimo. E così è successo, si è avuta la Brexit. Dopodiché, dopo la Brexit, si è messa in moto l'anglosfera. Questa è la storia, lo zeitgeist, lo spirito del tempo che si muove e che va al di là delle cose economiche. E nell'America obamiana, che aveva già macinato record su record nel mercato, l'economia andava abbastanza bene, eccetera, è venuto fuori Trump. Che cosa significa questo? Poi parlando con una mia amica che fa filosofia politica, una grande studiosa di Hobbes, del sistema inglese, eccetera, è venuta fuori questa storia, che gli inglesi sono il cervello degli americani. E quando una cosa succede prima nel Regno Unito, poi succede anche in forme diverse, per carità, ma succede anche a Washington. In quel momento si è aperto un nuovo ciclo, cioè prima la Brexit a Londra, poi Trump a Washington, e si è riaperta la grande partita dell'anglosfera. E se tu guardi, abbiamo avuto un picco sismografico proprio qualche giorno fa con la riforma fiscale di Trump. Sì. Che cosa è quella? Ma quella è una enorme sfida all'Europa. E allora tu devi mettere insieme due fattori che secondo me sono eccezionali e sono destinati a cambiare la curvatura dello spazio storico in cui ci stiamo muovendo. Da una parte la rupture, lo shock dal punto di vista del diritto dell'uscita degli inglesi. Il problema numero uno degli inglesi che se ne sono usciti dall'Unione, dal punto di vista giuridico, questa è la faccenda che più spaventa tutti, perché apre ovviamente il tema Catalogna subito dopo. Esatto. No? Ecco il link, ecco perché no, c'è questo tema pazzesco che spaventa tutti. E l'altro attacco è stato invece economico-finanziario, cioè la riforma fiscale di Trump, perché in Europa non si racconta, non so perché, è una cosa abbastanza folle secondo me, ma la riforma fiscale della Casa Bianca, ma ragazzi, è un cambiamento gigantesco. Ma lo sai perché non si racconta, perché il presupposto di quella riforma fa a pugni e liquida tutta la controstoria europea delle alte aliquote, del fatto che il vero problema sia l'evasione e non che l'evasione sia collegata alle altissime aliquote nominali, che poi di fatto in realtà nel nostro ordinamento per esempio contrattano con decine e decine di constituents aliquote piatte, perché questo significa avere 444 deduzioni e detrazioni nel nostro paese. Allora, detto questo, ovviamente si presenta questa riforma come se fosse, su cui tra l'altro si riconcilia Trump col Partito Repubblicano, con cui per tutto il resto non va d'accordo, ma la si presenta come figlia di una follia, vedi gli articoli su Repubblica e così via. Non è che dicono, guardate che l'aliquota che scende dal 35 al 21% sul reddito delle imprese è la vera sfida per noi, che crediamo invece enorme di continuare a tartassarla. Vabbè, comunque questo è una cosa enorme. Allora, chiudendo questo cerchio, Oscar, che cosa succede? Che la riforma fiscale di Trump è l'altro pezzo che mancava a questo ciclo che si è aperto, no? A questa serie di ondate che stanno arrivando continuamente sul vecchio continente, sull'Europa continentale. La riforma fiscale di Trump è tanto grande, tanto impattante, che oggi Goldman Sachs, ha comunicato ufficialmente alla Security Exchange Commission, alla SEC, che i suoi profitti caleranno di 5 miliardi, per effetto 5 miliardi di dollari, signori, caleranno per effetto del reshore, cioè del rimpatrio degli utili detenuti all'estero. Esattamente. Ora, ma voi capite bene di che cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di una serie di cose che hanno impatto reale, di cui la Brexit e Trump e in parte la Catalogna, vedremo come risolvono poi il problema gli spagnoli, perché è tutto da vedere, e che non si può ignorare. E giustamente tu fai la domanda, ma non è che ci stiamo sbagliando, ma il problema non è che ci stiamo sbagliando noi, Oscar, il problema è che sta sbagliando l'Europa. Sai, se sbagliamo io e te o qualche opinionista, pazienza, c'è niente. No, certo. Il problema è la sottovalutazione da parte della governance europea e delle cosiddette classi presuntamente colte e intelligenti, aggiungo, i fenomeni che invece sono destinati a entrare nella long durée della storia. Esatto. Nel tempo lungo. Io non divento meno critico verso i politici, però fanno un'operazione che nella storia si è sempre vista. Noi non stiamo vivendo un momento senza, come dicono quelli che dicono, le fake news non sono mai esistite. Scusate, le fake news nella politica esistono da che esiste la politica. Uno. Le leadership emotive, cioè quelle dei partiti che chiedono la rottura, sono populiste, potete descriverla come volete, però la leadership emotiva è da sempre la leadership trasformazionale, nelle imprese come nella politica, e quindi non raccontiamo per favore cose diverse, questa è la mia opinione, ma quello che io mi pongo il problema è che io devo separare le mie convinzioni su quello che ci guadagniamo stare nell'euro da una parte, sul fatto che l'Europa deve cambiare, ma insomma bisogna difenderla, perché noi come paesetto da solo, proprio perché siamo esportatori, non siamo abbastanza forti per autotutelarci, finiremmo con una liretta, questa è la mia, resta la mia opinione, ma questa mia opinione non può impedirmi di vedere, di farmi vedere e di riflettere sul fatto che se la stragrande maggioranza di italiani oramai la pensa diversamente nel quadro di un voto europeo che in un mucchio di paesi ha caratteristiche analoghe e la stessa storia, la radice della separazione da le elite che non capiscono e credono di avere il futuro in mano, ma il futuro va da un'altra parte, quello che loro vedono di quello che sta succedendo su Brexit, hai voglia a dirgli no, e la May è prigioniera di Juncker, sì, due settimane fa in realtà ha quasi capito, ma di fatto il fondo che arriva a loro è intanto un momento, quelli hanno votato, sono fedeli a quello che hanno votato e per il momento l'Europa deve stare incatenata lì. Allora io dico che il nostro compito, se vogliamo fare bene il nostro mestiere, è quello di porci il problema generale, non di nasconderci dietro le nostre convinzioni, almeno io la vedo così, perché non è che vale la mia idea, siccome c'ho un microfono o tu scrivi per i tuoi abbonati, allora la nostra idea è il verbo, perché fino a prova contraria, se la maggioranza degli italiani la pensa diversamente, per me il problema è che quella roba conta ancora, altrimenti dovremmo dedurne che dobbiamo abolirlo, il suffragio universale, facciamo la Repubblica di Platone, però insomma non mi pare, io penso che alcune delle elite italiane sarebbero disponibili a farlo. Senti, no, hai toccato l'altro tasto, la volontà popolare. La cosa, secondo me, la lezione grandiosa, di cui io provo grande ammirazione per questo, ti dico la verità, è che gli inglesi rispettano l'esito di quel referendum, non hanno nessuna pulsione alla francese. Ricorderanno tutti gli ascoltatori tuoi di Radio 24 quando la Francia bocciò la Costituzione europea, e a un certo punto li fecero rivotare, sì. Cosa che in Inghilterra non può succedere, mi segui? Cioè, persino non è che... Corbyn, che in chiave di Europa continentale sarebbe diventato in 5 secondi di fronte alle difficoltà della May, che esistono, cioè è una difficoltà evidente nel suo partito di leadership, di controllo della situazione, però in Italia sarebbe diventato immediatamente un leader che per prendere voti, siccome è forte nei sondaggi, sta andando benissimo, se si vota vince lui, attualmente sarebbe diventato il leader del cambiamo posizione. Incredibile a dirsi Corbyn, che viene io lo sbeffeggio per altre convinzioni politiche, però sul fatto che lui dice no, io sul referendum non me la sento di dire no. Facciamo finta che non si è votato, è quello che dici tu, non è possibile, questa lezione secondo me di democrazia ha avuto tra l'altro non la liquidazione così, vabbè si è votato facciamo così, ma attenzione, ha avuto vari stage, vari un percorso molto molto netto, si è arrivati fino alla decisione della Corte su quello che era il potere della corona, esatto. Chi doveva l'eredità del potere della corona, cioè il potere della corona era il potere del re in politica estera, per intenderci, che bisognava capire, pensa a che livello di raffinatezza sono arrivati in questa discussione, bisognava capire chi l'avesse veramente ereditato questo potere nel caso di far scattare l'articolo che poi avrebbe innescato la Brexit, era del governo o era del Parlamento? Esattamente. Quel che ancora adesso è la questione aperta, perché il Parlamento, tra l'altro con pezzi di conservatori che hanno fatto passare la cosa, dice caro governo, cara May, governo pro tempore, tu te lo scordi di non sottoporci qualunque ipotesi di accordo prima, perché decidiamo noi, non decidiamo. Allora, questo processo merita l'applauso. Lo so. Perché quello è il processo in cui c'è la volontà popolare, questa volontà popolare che quindi viene dal basso, sale verso l'alto, diventa un mandato, questo mandato viene poi eseguito dal potere esecutivo. Scusami Mario, il quale si confronta col Parlamento, al modo in cui tutti i governi, quando sono state assunte decisioni, che l'Italia ha trattato, non ha mai subito una scelta degli sviluppi europei, Però tutti i governi che si sono presi la responsabilità di aver trattato e condiviso quelle decisioni, in Parlamento l'hanno fatto passare la chetichella con votazioni tatatà. Questo riguarda la BRRD all'ultimo momento sulle banche, come voglio dire il motivo per cui i diversi capitoli del patto di stabilità europeo, riguarda tutti gli sviluppi che ci sono stati da Maastricht in poi. La differenza è che lì ci credono sul serio alla rappresentanza e alla sovranità popolare. Da noi poi tutti fanno finta di non averle votate le cose in Europa, perché in Parlamento le hanno fatte passare in maniera tale che all'opinione pubblica non apparisse per niente chiaro, il che significa avere proprio una idea irriguardosa, oramai minimalista, di che cos'è la sovranità popolare e la rappresentanza vera del Parlamento della sovranità popolare. E questo accomuna tutte le classi politiche italiane che hanno fatto scelte di sviluppo europee, tant'è vero che sono le stesse in difficoltà che raccontano agli elettori, ai propri elettori, che la colpa è di qualcun altro. Ci fermiamo un secondo e torniamo. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. La versione di Oscar. Allora, eccoci qui, tornati in diretta, 16.36 primi e 4 secondi, e a Mario Secchi si aggiunge, con mia grande gioia, perché io sono molto nostalgico di quando lavoravamo insieme, lei aveva 6 anni praticamente, perché adesso sono passati una ventina, ne avrà 26 al massimo, la capa degli esteri del Foglio, Paola Peduzzi. Paola, ma eccoci, grazie di essere con noi, come stai? Bene, grazie, ciao Oscar, ciao a tutti. Ma tu sei troppo piccolo, non ti puoi ricordare di me al Foglio, però... sì, proprio. Sì, sì, beh, è imbarazzante, sei di una... insomma, secondo me neanche nell'Italia gerontocratica tu non dovresti essere neanche apprendista giornalista, però dai, sto scherzando, come ovvio. Voglio sapere, dal tuo punto di vista, noi stiamo interrogandoci su questa domanda e con Mario Secchi ci siamo posti il problema: ma non è che agli italiani già così anti-euro, anti-euristi, sta arrivando dalla Brexit, dalla Catalogna, l'effetto opposto di quello che molti sui grandi giornali descrivono? Cioè, in realtà, malgrado le difficoltà della May enormi, quello che arriva agli italiani, che pensano che di Europa e di euro ne abbiamo avuto troppo e male, arriva semplicemente che, malgrado le difficoltà britanniche, l'Europa è incatenata allo stesso tavolo e non può far finta di niente, anzi al contrario. E persino nel caso catalano, malgrado tutti abbiano detto è tutto finito, è tutto finito, Madrid in realtà è obbligata adesso a risedersi al tavolo e a vedere. E allora questo effetto opposto, che in realtà potrebbe ulteriormente rafforzare la tendenza già maggioritaria nell'elettorato italiano su euro ed Europa, da queste due vicende, se la smettiamo di vederle con l'occhio delle elite, forse, diceva questo mio amico, riusciti a capire meglio perché gli italiani ancora di più saranno anti-euro e anti-Europa. Tu come la vedi, Paola, a cominciare dalla Brexit? Ma io penso che quest'anno è stato un anno molto importante per l'Europa, soprattutto perché partivamo con aspettative sotto zero. Il fatto che invece siamo sopravvissuti agli scossoni che erano previsti all'inizio dell'anno hanno dato uno slancio, anche un entusiasmo, che a me sembra un po' entusiasmo quasi da primo amore, perché non c'era mai stato, secondo me, un senso di appartenenza europeo così forte. Ovviamente è una reazione alla grande paura del 2016, e quindi, essendo una reazione, non si può considerare... Cioè, insomma, l'effetto amore perché Macron ha battuto la Le Pen, punto. Sì, anche perché appunto pensavamo di essere spacciati, pensavamo che anche la Brexit fosse l'inizio di un effetto domino di desideri di uscire, di nazionalismo, di stati-nazione, che invece non c'è stato. Questo non è che intendo dire che siamo salvi, e anzi quello che dici tu, dite voi, del fatto che soprattutto in Italia il senso così che questa Europa sia opprimente e non certo un'opportunità è molto forte, quindi questa reazione alla sopravvivenza non può essere considerata come una cosa vera, una cosa che può durare nel tempo se oltre allo slancio non ci si mette qualcosa di più concreto. Per quel che riguarda la Brexit, io penso che l'Europa abbia attraversato quest'anno vari atteggiamenti, e all'inizio erano tutti molto depressi, poi hanno fatto abbastanza i bulli e adesso con l'accordo di fine anno hanno un po' capito che certo l'Inghilterra perde molto a uscire dall'Europa, e anche l'Inghilterra si sta rendendo conto che uscire non è esattamente così semplice e così fruttuoso. Se poi evitasse di contorcersi nei propri problemi del partito conservatore e di leadership azzoppate, magari sarebbe meglio, però anche l'Europa ha molto da perdere, e quindi mi sembra che abbia assunto un atteggiamento un pochino più conciliante, e spero che continui a mantenerlo anche nel 2018, perché il muro contro muro credo che sia deleterio per l'Europa prima di tutto. Però vedi, in questo maggior realismo, facciamolo con un esempio comprensibile, non è detto che i nostri ascoltatori si ricordano e conoscono tutti i particolari, non sono tenuti a farlo. Quando nell'accordo preliminare senza il quale nel 2018 non si iniziava la trattativa vera, cioè quale sarà la disciplina commerciale, certo, dei beni e dei servizi tra Gran Bretagna e Unione Europea, cosa resterà delle quattro libertà, in realtà diceva Mario, io sono molto d'accordo, la Germania non può, non è proprio facile per la Germania rinunciare al fatto che, come dicono invece gli europeisti tosti, bisogna negargliele le quattro libertà ai britannici, così imparano. Invece, conti alla mano, non conviene quasi a nessuno avere questa impostazione. Come dicevi tu, Paola, siamo diventati più ragionevoli. Se faccio un esempio, una volta che nel preaccordo siglato pochi giorni fa, l'Unione Europea e il Regno Unito concordano che per via della questione Irlanda del Nord, Repubblica Irlandese, lì l'Irlanda del Nord resta ad avere il pieno accesso alle quattro libertà e non ci sarà frontiera, ecco, si apre un corridoio per il quale, quando la Scozia chiede la stessa cosa e chiederà la stessa cosa, sarà complicato dire di no. E cosa voglio dire? Voglio dire che a quel punto la Brexit diventerà di fatto, per convenienza comune, io mi auguro che tu abbia ragione, che davvero si vada avanti su questa strada di ragionevolezza, ma per convenienza comune, la modifica del fatto di cosa del diritto europeo vale in Gran Bretagna, senza per questo far venire meno la sostanza del mercato unico, come vogliono invece gli euro, diciamo così, estremisti, perché difendono l'Unione Europea così com'è. E secondo me la mia idea è che difenderla così com'è significa, come al solito, commettere un errore, come quelli che difendono la Costituzione italiana così com'è eterna. Certo. Gli ordinamenti devono evolvere nel tempo. Se non abbiamo la reciproca convenienza a farci del male nella crescita economica, allora forse meglio una via per cui c'è più sovranità nazionale, senza per questo rinunciare alle libertà che riguardano le persone, i beni, i servizi e i capitali. Allora, per questo io dico, questa roba però concretamente, Paola, significa che anche in Italia chi sostiene la ridefinizione del nostro rapporto con l'Unione Europea è, da questo trae un argomento serio, non possiamo far finta di non vederlo, o no? Certo. Questo che dice è giusto, secondo me appunto il fatto che ci sia un negoziato in corso e che questo negoziato adesso sia diventato un po' più di ascolto, non soltanto questa è la nostra posizione, noi siamo 27, voi siete uno, vedetevela voi, perché tanto noi non ci muoviamo da questa posizione, quello che gli europei chiamano il cherry picking, cioè che non potete scegliere solo quello che vi piace dell'Europa. Per cui io penso che il negoziato porterà a delle modifiche, come dici tu, anche sostanziali dei rapporti tra gli Stati membri e l'Unione Europea. Il problema, dal mio punto di vista, è che non siamo in grado, almeno credo che l'Europa non sia in grado di gestire questi cambiamenti, cioè che la posizione così totalitaria, per cui o dentro o fuori, queste sono le regole, ve le prendete e fine è dettata da una debolezza di base, oh, cioè però incapacità. Poi alla fine sarà la Germania e la Francia che faranno valere il loro peso, e i loro legami economici con il Regno Unito secondo me dovrebbero indurli a ragionare. Di sicuro io so che i tedeschi, penso che i tedeschi ragionano, abbiamo già detto con Mario, adesso ci torniamo anche con lui, di no. La Francia di Macron non lo so, però che si metta a sposare l'estremismo di Juncker, ma non ecco. Credo, esatto. Sì. Anche perché anche i socialdemocratici, quando fanno quelle dichiarazioni, troveremo un accordo che farà da modello anche per altri rapporti con altri paesi, un po' quello stanno dicendo, cioè il modello Brexit vuole essere una cosa che magari si può replicare. Ma non c'è dubbio, e poi parliamoci processi. Chiaro, coi paesi del blocco di Visegrad, se noi pensiamo di risolvere la questione... Andiamo al dunque, con la Polonia scomunicandola, noi regaliamo altri voti all'estremismo polacco. Io penso che anche in quel caso il problema è del tutto analogo. Può permettersi mai la Germania che ha delocalizzato, di cui la Polonia è una parte integrante del suo mercato domestico, parliamoci chiaro, può permettersi la Germania di scomunicarla democraticamente e dire vi sospendiamo dall'accesso alle risorse europee e dal mercato unico? Conosciamo la risposta, se vogliamo fare il nostro mestiere, Paolo, la mia opinione è, non ho detto se vogliamo, io non impongo a nessuno, però io sono obbligato a dire ai miei ascoltatori no, la Germania non può farlo. Allora da una modifica di come si può stare insieme con il mercato comune e con livelli di sovranità che ritornano verso la sfera nazionale, che è quello secondo me che avviene al tavolo con il Regno Unito, beh, anche per tanti altri paesi europei può diventare la strada. Fermiamoci un secondo e torniamo tra un minuto. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati, c'è con noi Paola Peduzzi, capo degli esteri del Foglio, e Mario Secchi, giornalista fondatore di List. Abbonatevi a List, abbonatevi a List, abbonatevi a List, e me ne vale davvero la pena. Mario, hai sentito Paola che scenario descriveva? Tu molto come realistico. La pensi? Cioè, trovare un al tavolo britannico, però anche questo riguarda pure questo la Catalogna, un riaccentramento di poteri, cioè una conferma di poteri che dall'alto, dove erano stati sussunti nell'edificio europeo, riscendono verso il basso, contemporaneamente senza rinunciare, perché ci facciamo male tutti, alle quattro libertà economiche. Non è uno schema che da una parte, ohimè, secondo me dà ragione a chi critica l'Europa in Italia, e questo potrebbe essere l'effetto, ma dall'altra serve anche a regolare i rapporti con altri paesi europei. Che facciamo? Li scomunichiamo tutti altrimenti? Ma è impossibile. Cioè, il gruppo di Visegrad è un pezzo al quale tu non è che dici vabbè, fate come diciamo noi, ma non è possibile. Cioè la Polonia è un gigante, forse non è chiaro, molti non sono mai andati in Polonia, la Polonia è sterminata, è uno stato cuscinetto da sempre nella storia tra l'Europa, diciamo, occidentale e l'Eurasia. Cioè, la Polonia fu usata nel corso dei secoli come una sorta di gate porta continua, no? E per quello che la Polonia passava di volta in volta da una dittatura all'altra nella sua storia. Perché? Perché era un passaggio fondamentale. E la geopolitica ha dei tratti che sono permanenti e persistenti, possono passare secoli, ma voglio dire, la Polonia sta sempre là, non è che ha cambiato posizione, e quella posizione la rende peculiare, e quella storia che ha subito la rende ancor più particolare. Ecco perché il nazionalismo polacco, come dicevi giustamente tu, non può essere derubricato a un facciamo come diciamo noi, voi siete tutti dei brubru, degli ignoranti, incolti, e noi che siamo le classi illuminate decidiamo per voi. È impossibile, non si può fare, perché bisogna tenere conto dello spirito del tempo che noi stiamo attraversando, che è interessantissimo e che è di enorme portata. Guardate che io penso che Paola non è neanche un caso che mentre praticamente poche ore dopo che noi applicavamo come Unione Europea, per la prima volta l'articolo 7 del trattato alla Polonia, per il motivo è che le leggi sulla magistratura concede troppo potere alla politica. Io sono d'accordo nel merito, non mi piace per niente l'ordinamento giudiziario che si è dato questo governo polacco. Noi abbiamo, per la prima volta nella storia dell'Europa, gli abbiamo detto: alto là, voi siete, state diventando uno stato autoritario, se continuate ci saranno interventi durissimi. Allora, poche ore dopo la May era a firmare un accordo di cooperazione di difesa diretta tra il Regno Unito e la Polonia, come è evidente, perché la Polonia dal punto di vista della difesa e sicurezza guarda alla NATO, cioè agli Stati Uniti, e guarda caso la May era lì a dire: beh, amici, noi siamo amici vostri, gli altri europei no, ma noi no. Non era un caso, dai Mario. No, scusa, ecco, hai evocato l'altro pezzo della faccenda, la diplomazia inglese. La rete diplomatica inglese, cioè il Foreign Office, è uno strumento eccezionale. Vorrei ricordare che quelli, e qui torniamo alla longue durée della storia, eccetera, quelli avevano l'impero, e la rete diplomatica è rimasta, non è che se n'è andata. Le relazioni che ha il Regno Unito con il resto del mondo sono di portata gigantesca. Consiglio vivamente di guardare che cosa sta facendo Boris Johnson. Boris Johnson è una trottolina che sta facendo il giro del globo, e ovunque va ci va perché sta tutelando. L'unico negli ultimi giorni ad aver avuto il fegato, io glielo riconosco, di fare una conferenza stampa con Lavrov fuori dai denti, dicendosi in faccia l'uno all'altro che cosa pensano i rispettivi governi, esatto, delle politiche adottate dai loro paesi. Esatto, esatto. Molto interessante, perché è andato là, ha parlato francamente, con durezza, si sono stretti la mano, e la realtà è che l'Europa sta entrando, per sua debolezza, per sua incapacità di darsi una governance effettiva, sta entrando in una sfera di influenza che è fatta da un triangolo: la Russia sul lato eurasiatico, diciamo, il Regno Unito, che controllerà e attrarrà sempre di più Berlino, perché c'è poco da fare, quello è il ceppo anglosassone, torniamo sempre ai grandi movimenti della storia, ci sono centinaia di saggi interessantissimi sul tema, e gli Stati Uniti, Trump. Tu hai citato la Polonia, è interessantissimo il discorso che fece Trump in Polonia, un discorso di politica estera naturalmente sottovalutato da tutti, noi l'abbiamo tradotto sul list, Oscar, era una specie di allarme a tutta Europa, sì, gli stava dicendo: voi dovete decidere se avete voglia di tutelare la vostra libertà e democrazia con noi. Chi gliel'aveva scritto, perché non ha scritto, però aveva scritto benissimo, interpretava esattamente quello che stai dicendo tu. Naturalmente l'Europa non ha proprio ascoltato. Cioè, no, non l'hanno ascoltato, invece era estremamente significativo. Nella piazza della rivolta polacca ha fatto quel discorso Trump. E come vedi, poi tutte le tessere del puzzle in qualche maniera tornano, per cui qua in realtà noi stiamo tutti fermi e stiamo aspettando chi? La Germania. No, ma io dico che io siccome mi preoccupo di cosa scelgono gli italiani, mi preoccupo, insomma, è chiaro, facendo giornalista dobbiamo stare attenti. Forse Paola, invece di continuare a indossare i panni del tifo contrapposto estremista, o accettiamo tutto l'Europa com'è oppure siete miserabili, e dall'altra parte avete svenduto la patria, perché l'accusa che viene a quelli come me e gli insulti, le minacce sono: traditori, vi cacceremo in 24 ore se vinciamo le elezioni. Questo è il tono del dibattito, per come la pancia popolare lo vede. Ecco, forse quelli che stanno nel campo eurista e europeista dovrebbero un po' cambiare tono per tentare un'operazione anche un po' emotiva, dicendo: questo e questo va difeso, questo e questo invece no. Io nel dibattito pubblico, parlo dell'informazione, Paola, questa oggi ci stiamo provando, no? Ci stiamo provando in qualche modo. Ecco, io questa roba non la vedo. Vedo solo lo scontro armato e verbale, ma lo scontro armato verbale però intanto ha spostato gli italiani, che per una ragione o per l'altra non sopportano l'elite, hanno perso reddito, hanno perso le banche, eccetera, eccetera, eccetera, a fare una scelta netta, a maggioranza, in partiti diversi, sono contro l'Europa e contro l'euro. Se quei partiti riuscissero a fare un'intesa elettorale dopo il voto, noi ci mettiamo in una condizione come i paesi che hanno scoperto dopo il voto che quel voto era possibile, esattamente come è avvenuto per Trump, come è avvenuto nel referendum dell'Eurexit, eccetera, eccetera. Non so come la pensi tu, Paola. Sì, io il pericolo lo vedo come te, sono un po' più ottimista rispetto a voi sulla capacità europea di modellare e forgiare una nuova proposta nei confronti non soltanto della Brexit, ma anche dei rapporti con gli Stati membri. Anche la questione polacca ovviamente è stata una procedura mai utilizzata prima, una mossa molto dura, però a me è piaciuta anche la risposta polacca, che questo nuovo premier che è stato nominato da poco è stato molto ragionevole nella sua risposta. Molto ragionevole, sì. E questo secondo me è stato un segnale positivo, perché implica che anche lì loro stanno trasformando, probabilmente per ragioni interne, dicono che sia dato dal fatto che il partito è molto forte con la sulla base, diciamo, conservatrice, e adesso con questo premier un po' più liberale, che aveva anche lavorato con Tusk, quindi diciamo un po' più trasversale, voglia prendere il voto della borghesia polacca, che invece adesso è un pochino trastornata. Quindi ci sono delle logiche anche interne nelle mosse di tutti, però quella risposta secondo me è stata la dimostrazione che l'Europa usa le minacce spesso in modo un po' così goffo, ecco, sì, mi sembra, sì, un giusto aggettivo, goffo. E che però ha qualche effetto, si riesce anche a sortire. E che quindi se l'Europa riesce a trovare un equilibrio tra la volontà di, come dicevate prima, di ascoltare e di comprendere tutti questi movimenti che continuano a dire questa Europa non funziona, il vostro approccio elitario da salotto non funziona, i paesi, le pance dei paesi si spostano continuamente da un'altra parte. Oggi ho letto un paper che è appena stato pubblicato dall'istituto di Tony Blair in Inghilterra, sì, sul populismo, e appunto dice che studia tutti i dati dal 2000 al 2017, quindi insomma prima dello shock finanziario, prima dello scossone del 2016, prima di tutte le cose recenti che secondo noi hanno creato il populismo, invece racconta come in media il consenso è passato dall'8% al 25%, cioè è più che triplicato, e anche in questo 2017, che per noi è l'anno della sopravvivenza, ha continuato a crescere, certo. Ma non c'è dubbio, secondo me, ripeto, pensare di liquidare la cosa dicendo sono fake news è una cosa da illuministi scemi, cioè questa è proprio la mia idea. È l'idiozia più grande che possiamo fare. Sono d'accordo. Comunque, è vero che bisognerà vedere un po' la Germania come la pensa, però secondo me la Germania è disposta a una trasformazione vera, i francesi non lo sappiamo. Intanto io ringrazio Paola Peduzzi e Mario Stecchi per averci dato la loro saggezza, auguro anche a loro un ottimo fine anno. Agli ascoltatori vi dico che io ci sono anche domani alle 10 con i conti della Belva, con il pari dei conti della Belva. E comunque, se domani mattina proprio non potete perché già state comprando le cose del cinema di fine anno, vabbè, allora ci sentiremo l'anno prossimo. Intanto buon anno a tutti e continuate su Radio 24.